Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Le 8:18 minuti, caro Oscar, siamo sempre in dirittura d'arrivo e tu combatti col computer. Entro la fine vincerai. Entro la fine avranno la vinceranno su di me, come sai, mancano 24 ore alla scadenza del mio contratto. Detto questo, cari ascoltatori, siamo in diretta come sempre fino alle 9:30, come sempre, ma poi inizierà un palinsesto estivo e nuovo con voci più fresche della mia. E quindi, oggi 28 luglio, Santa Cacio, Sant'Arduino, San Carneliano, Nazario e Celso. Mi fermo qua perché, come vedete, i nomi sono un po' strani. Lasciami dire che oggi, per un caso, però, morivano sia Antonio Vivaldi che Johann Sebastian Bach, che sono due dei miei musicisti preferiti, uno nel 1641 e uno nel 1750, e iniziava la prima guerra mondiale. Siccome sono musicale, oggi di tutti i compleanni possibili ricordo quello di colui che secondo me è il più grande direttore italiano, uno dei più grandi direttori viventi, cioè Riccardo Muti, che nasce oggi nel 1941, perché è ancora vivo con noi ed è uno grandioso. Nel giorno in cui la fila del libro va via dalla mia Torino per Milano, hai visto? Avrei fatto la stessa scelta. Sì. Da anni ero critico verso come era organizzata la fiera del libro a Torino. Secondo me ci sono tutti i segni. Comune e Regione di Torino hanno tutte le colpe, perché per due anni hanno fatto delle nomine a tempo, non hanno saputo fare scelte, poi la mano politica era pesantissima del politicamente corretto, quindi io capisco che la maggioranza mi dispiace per Torino, piace tantissimo, però credo che ci fossero proprio dei segni evidenti. Ferrero richiamato indietro all'ultimo secondo, la Milella, insomma delle cose che non funzionavano. Il titolo forse più efficace è del Fatto Quotidiano oggi, no? Anche un po' amaro, amaro, il salone a Milano, a Torino lo sgabuzzino. Beh, è un po' come sempre dire. graffiante, però è stata anche una scelta che ha spaccato il mondo dell'editoria, che spacca la politica, un ceffone al ministro che pensava come al solito di fare la politica, cioè pensava tutte e due, no? Sempre senza mai scegliere. Del resto devo dire che il Fatto Quotidiano mi piace anche oggi perché coglie un punto politico nella noia della politica di questi giorni, infatti ce ne occupiamo poco per quello, che però secondo me è molto centrale. Perché questa scelta di dire il governo, scuola, ci aprono, il governo non c'è più, c'è un bellissimo pezzo di Giorgio Meletti che spiega come i ceffoni di Napolitano da una parte e di Mattarella dall'altra abbiano praticamente azzerato l'agenda del governo. Cioè il governo si è data l'idea di essere gassoso fino a fine anno, e se uno va a vedere i provvedimenti che nel frattempo il governo non prende più, per esempio il famoso 500 euro per diciottenni, sai che è sparito? Si aspetta il referendum. Che cacchio c'entra il referendum col bonus dei 500 euro? No, poi non parliamo di queste cose, anche perché di sti tempi, a parte che è il 28 di luglio, forse la gente vuole sentire parlare di altre cose se non delle beghe politiche. Ma hai ragione. Poi a noi di questi tempi ci sono anche ben altre tragedie, di cui parliamo, come parleremo di abusivismo edilizio, uno dei nostri cavalli di battaglia, caro Oscar. Che nostro e di chi lo ripropone. Sì, no nostro è per parlarne, e di chi lo ripropone, che vince, non prevalebunt. Esatto. Diremo così. E poi parleremo anche un po' di calcio, ma in una chiave un po'. Parleremo di questo passaggio di Higuain dal Napoli alla Juve. Io mi sento già un po' Calimero, perché tu sei del Torino, c'hai Cairo, che adesso c'è anche il Corriere. Sì, è un grandissimo 1-1 ieri col Benfica a Torino, è un grandissimo esordio. Scusami, parentesi, tu l'hai citato, sai com'è. Ah, ti ricordo che noi questa notte a New York abbiamo vinto un trofeo contro il Bayern di Monaco. E quindi ristabiliamo la gerarchia. Comunque parleremo di Napoli, Juve, Torino con te, e pensate al mio povero Milan, mi sento Calimero. Questo momento calino. C'è un grandissimo programma di acquisti di qui ai due anni prossimi. Però. Ah, va bene. No, però andiamo con ordine e torniamo sulle questioni della Francia, le questioni, questioni di questo Papa un po' singolare. Prima di entrare in onda, il nostro Oscar era abbastanza critico nei confronti del Papa. Perché no, io sono, devo dire, mi ha fatto sempre sorridere chi vuole insegnare a fare ai papi il loro mestiere. Ogni papa decide come interpretare il suo magistero petrino. Mi rivolgo un po' agli amici del Foglio, a Ferrara, che da anni si sono incardinati come una cattedra autonoma rispetto a quella petrina. Ma però devo dire che ieri il tono usato nel dire non è guerra di religione non ti è piaciuto, no, è senti, molto colpito, ecco, perché è troppo preciso secondo me, più che non piacermi, perché figurati, sentiamo cosa ha detto. Il mondo è in guerra. Qualcuno può pensare sta parlando di guerra di religione. No, tutte le religioni vogliamo la pace, la guerra la vogliono gli altri, capito? Allora, cioè è una guerra che, guarda, è un po' quello che ci ha detto, non che il Papa ascolti Lucetta Scaraffia, ma ieri Lucetta Scaraffia ci ha detto questo, cioè non è una guerra di religione. Certo, ha aggiunto, magari bisognerebbe dire che quelli lì che ci attaccano, quei terroristi, la vorrebbero invece così, la interpreta come una guerra di religione, che ci sgozzano i prete, ci... Sì, ma non si tratta di concepirla come guerra di religione, perché uno la vuole promuovere come guerra di religione, vuole fare le crociate. Però... all'opposto, negare l'aspetto che da sempre, dal caidismo in poi fratellanza musulmana, in declinazioni diverse, l'islamismo mette al centro dello scontro con la cristianità, ecco, questo secondo me è come negare la realtà, secondo me. Io capisco, ripeto, evitare ogni tono ritorsione in chiave religiosa, ci mancherebbe. Però dire è una guerra, non è una guerra di religione. E poi il Papa ha proseguito, perché ha detto le guerre ci sono solo per gli interessi economici. Sì, per gli interessi economici, interessi jihadismo. Di... ma dai, scusa. Interessi sulle risorse. Eppure da marxistello, da strapazzo, che non mi aspettavo, francamente. Non te l'aspettavi. Ma no, jihad, con tutto il rispetto, è come Al-Qaeda, è un sommovimento che nasce da un'interpretazione estremista di che cosa l'islamismo pretende di dettare alla politica, in primis nel mondo islamico, lo abbiamo sempre detto, però è un grande scontro politico-culturale, non è una questione solo di chi... mica è la questione del petrolio, perdonate, l'abbiamo visto tante volte il petrolio, però adesso se il califfo è colpa del petrolio e delle multinazionali, chiudiamo baracca, ragazzi. Tra l'altro chiamateci ovviamente all'800 24 0024. Certo, Oscar, forse non aiuta, io non lo so se tu hai letto quello che ha scritto oggi Filippo Facci sul libro, prima l'ho letto in rassegna stampa. Filippo Facci, non lo so, forse in 10 minuti di rabbia, solo che i 10 minuti di rabbia uno li può, non so, al limite concedere a Facebook, uno dice oh, adesso scrivo questa cosa e poi rimane, ma è stato stampato su Libero l'editoriale di Filippo Facci che dice io odio l'Islam, proprio così, odio tutti gli Islam, i loro tappeti pulciosi, le loro moschee, i loro muezzin, il cibo da schifo, le vergini, la permalosità, il Corano, che definisce il libro di puntini puntini, ma scritto, cioè quel libro di con questi termini, così, uno sfogo. Ecco, forse questo, non lo so, è questo che vogliamo? Perché se è questo che vogliamo, cioè imbracciamo le alabarde, le scimitarre, quello che Filippo Facci voglia fare questo. E certo, io anche non condivido una sua parola di quella roba lì, virgola, il nostro modello di civiltà è tale che appunto consente a Filippo Facci e a chiunque la pensi in maniera diversa di scriverlo, e questo non dimentichiamocelo, perché questo poi è il nocciolo della questione, ecco, ed è un nocciolo che ha a che vedere anche questo con la religione, perché attenzione, noi ci siamo scannati, come ricordavamo ieri nella puntata con Luzzatto e con la Scaraffia, noi come europei fino alla fine del Settecento per questioni di religione, cioè la Germania ha ucciso milioni di suoi abitanti nella guerra dei 30 anni per una roba che aveva a che fare con la politica e la religione, solo che la politica e la religione erano appunto il cattolicesimo e il cristianesimo rispetto ai protestanti. Poi abbiamo smesso di farlo in buona sostanza perché abbiamo capito che non ci deve essere una interpretazione di quello che la religione chiede alla politica e la politica chiede alla religione. Questa è la cosa fondamentale, per cui io non sono d'accordo con quello che scrive Filippo, ma difendo assolutamente la libertà di scriverlo. Questo sì, certo, le parole sono molto molto dure. A parte la guerra di religione c'è anche quest'altro dibattito. Oggi Mario Calabresi, direttore di Repubblica, scrive: Repubblica ha deciso, come per esempio Le Monde, come altre radio, come altre TV, di non pubblicare più chi le foto, chi i video, chi addirittura i nomi dei terroristi, cioè non vogliamo dare lo spunto per eventuali emulazioni, non vogliamo neanche essere portavoce, megafono di una sorta di propaganda di questi terroristi. Questo è un dibattito forse più all'interno dei, dei giornali, che però riguarda tutti, perché poi è l'opinione pubblica. Cioè, trasmettere o no il video di uno che dice sono qui dell'ISIS e sgozzo un prete? Questo è il dibattito, e la Repubblica ha deciso di non farlo più da oggi. Vediamo. Certo, nel mondo dell'informazione in cui nessuno ha più l'esclusiva, sembra una battaglia un po' di retroguardia, perché uno lo fa per principio, ma a fianco ci sono 10 che invece pubblicano. Io tendo tutto a non crederci molto. Non crederci che lo faranno? Sì, non credo che lo faranno, mi metto anche nei panni. Poi se la carta stampata, se tratta di scegliere, oramai su qualunque editore multimediale, quando hai da gestire notizie video, canali video, internet, i siti dei giornali e così via, le immagini, cosa fai? Metti un ascensore di tipo politico? So che molti che ci ascoltano dicono sì, certo, giusto e così via. Nella realtà dei fatti, se vuoi dare la notizia, devi usare le immagini più dure che hai. Questo, scusami, col video è così. Sì. Non è che fai la versione edulcorata e metti il tuo giornalista che dice non mandiamo in onda e vi riconto le immagini, perché non funziona. È una questione proprio di efficacia della notizia. Quindi io sono molto scettico su questa linea di politicamente corretto. Comunque, no, rispondo all'ascoltatore che dice facci alle palle di dire cosa pensa tu, Milan. No, no, io non la penso come Facci, è diverso. Quindi non è che uno per avere le palle di dire cosa pensa deve dire odio l'Islam. Esatto. Io non odio l'Islam e quindi non vedo perché debba dire. Però lo sappiamo che il tono così evoca anche reazioni così in tutti gli ascoltatori, in tutti i lettori. Ah, finalmente uno che parla chiaro. Queste materie bisogna stare freddi, calmi, perché io mi scaldo su altro, DAS, Stato, cioè all'interno del mio mondo. Dire puzzano i piedi a tutti quanti, beh, insomma, ma sì, attenzione, perché quando poi la risposta non sono calci, ma stragi, forse un pochino. Bisogna fare attenzione. Non è questione di paura, cari ascoltatori, è questione di misura, è un altro paio di maniche. Comunque ci chiamano, Gianni ci chiama da Milano, ascoltatore, buongiorno Gianni. Buongiorno Alino, buongiorno a Giannino. Niente, io volevo intervenire appunto sulla guerra di religione, che posso capire le parole del Papa, è giustamente il suo mestiere dire che le religioni cercano la pace, però non vedo altra definizione, perché è vero che nelle guerre si vuole sempre conquistare qualcosa, che siano territori, economie e tutto quanto, però mi sembra che in questo caso vogliono semplicemente esportare una loro civiltà, e la loro civiltà è dettata dalla religione. Quindi in questo la religione c'entra, cosa che sostengo anch'io, cioè dire che la religione non c'entra veramente... Ma direi addirittura proprio il massimo, non che c'entra, che è una guerra di religione. È una... tanto è vero che combattono addirittura in primis gli stessi musulmani che la pensano diversamente da loro. Questo aspetto del nostro ascoltatore è centrale, cioè è una visione estremista radicalizzata sunnita, quella del Daesh e del califfo, che considera gli sciiti come espressione del male, di Satana, del demonio. Quindi come si fa a non vedere che la questione religiosa è centrale? Adesso io posso capire il Papa, ma non lo posso capire, siccome è proprio sbagliato come messaggio, ecco, questo lo dico. Ma guarda, secondo me, non per tornare a dire le parole della Scaraffia, ma è la frase che riassume perfettamente quello che penso anch'io, cioè la religione c'entra, per loro è una guerra di religione, perché vogliono portare una guerra di religione, la nostra forza è di non scendere sullo stesso piano, cioè dire vi combattiamo perché è una guerra, vi annientiamo, vi annichiliamo, ma in nome del fatto che siete una minaccia alla nostra sicurezza. Ripeto, non perché siete musulmani. Ribadito, no, è una guerra, sì, non di religione, le guerre nascono per economia, interesse, eccetera, ma dai, Vabbè, ma ha fatto il Papa, però. No, Oscar. No, c'è Papa e Papa. No, sì, certo, il discorso della Lisbona certo di Benedetto XVI, certo. Anni fa, che sollevò tutte quelle polemiche, ovvio. Era chiaro nel dire: c'è stato un punto nella storia in cui noi per primi cristiani, eccetera, e abbiamo capito con troppi morti chiedendo scusa. Poi a un certo punto, invece, l'Islam ha ritirato fuori la spada. Diceva testualmente così: La spada. Piero parlava di Islam, sì. Non parlava della multinazionale certo, del petrolio certo. Come il Bergoglio. Piero, sempre da Milano, buongiorno. Sempre da Magenta, Spardo, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Sono un vostro quotidianissimo benissimo ascoltatore. Grazie. Volevo dire questo, ma è possibile che quello che è successo in Francia con le magliette di Maometto non ha insegnato niente neanche al signor Facci? e o più che altro al suo editore, che mette per esteso delle parole, non so, inammissibili, che anche un nemico dell'ISIS non direbbe. Io penso che stiamo dando proprio il fianco destro con l'informazione, con i continui telegiornali, sta diventando un'esaltazione continua, anche quando ci sono delle persone singole, a mio avviso, spostate, che non hanno a che vedere con l'ISIS e fanno degli atti criminali. Sì. Io dico di smetterla. Sì, però anche sulla questione che sono spostati, cioè c'è questa tendenza a dire: ma sì, ma sono spostati, no, sono matti. Certo, uno che fa una cosa del genere, per la nostra idea, no, è un matto. Scusi, uno tutto Milan, a posto non deve essere. Mi scusi tanto, Milan, ma per esempio, esaltare, non so per quanti minuti, io seguo pure la televisione, perché ho 73 anni, sto in pensione, e quindi seguo dalla mattina alla sera la televisione, e leggo molti giornali e molti libri, ma è possibile, per esempio, hanno dato 7-8 minuti tutte per quell'esaltato che ha ammazzato i bambini che erano spastici. Cioè è un continuo proprio di queste notizie. Quello in Giappone. Cioè lei dice, quindi è un po' della linea, come dice Repubblica, non diamo troppa eco a queste. Non diamo troppa eco, non la dovremmo dare per niente. Devono essere notizie, perché siete giornalisti, siete pagati, se no si parlerebbe solo delle bandiere azzurre del mare in questo periodo. Sarebbe il caso di con toni pacati, è giusto quello di dire non dare i nomi, è giusto quello di dire non dare fotografie, tutte queste cose qui, però ci deve essere pure la volontà da parte della stampa e da parte delle dell'idea, Piero, no, caro Oscar, il nostro Piero, no, così diamo spazio anche agli altri ascoltatori, Piero la ringraziamo ovviamente, dell'idea che insomma non, bisogna darle notizie ma non ricamarci sopra, ecco, mettiamola così. Posso capire che questi appelli, in realtà per chi confeziona, da chi ha la responsabilità di essere direttore, all'ultimo di noi che poi va in onda in diretta mentre ci sono i fatti, chiedete una cosa che non si può fare e che secondo me non è nemmeno giusto fare. Un conto è, perdonate, distinguere il compiacimento un po' macabro, ma altro conto è dare tutti i particolari possibili, tutti dal primo all'ultimo, di ogni notizia e ogni sviluppo, ecco. Ma qui, scusate, però anche la notizia, diceva il nostro ascoltatore, è 19, ripeto, il fatto all'inizio c'era, bisognava capire, e quindi è chiaro che per capire dai tutti i lanci possibili e tutti i particolari possibili. È inutile dopodiché poi c'è una tendenza a indugiare quando la polizia di Nizza dice: per favore, appello a tutti i media, a tutte le persone, non divulgate le foto delle vittime per terra. Ma perché era ancora in corso il fatto. Sì, però in questo c'è una forma anche forse di rispetto nei confronti delle persone che sono, il rischio anche di dare l'immagine di amplificare, insomma, di fare poi glorificare queste persone che godono poi di questo. Però con questo non dare le notizie è una follia. La differenza di Daesh rispetto al Qaeda innanzitutto sta nella capacità di aver individuato, appunto, nella rete e in migliaia di siti ogni giorno il vero rimbalzo quotidiano, la macchina del consenso. Giorgio da Modena, buongiorno. Sì, buongiorno, vorrei salutare il papa laico Giannino, augurargli una buona giornata e dirgli che io sono un cattolico liberale, sono assolutamente orgoglioso di essere cattolico e di volere un gran bene a questo papa, che non è marxista come dice lui, è un papa, punto e basta, è colui che rappresenta Pietro e la continuità di Pietro. Ma Giannino, le pare che capisco, ma cosa c'entra? È un anticlericale laico. No, è lei che è clericale, perché è lei che è clericale. No, io sono un cattolico liberale. Mi spiace un secondo. Scusi un secondo. Io ho detto che mi fanno ridere quelli che siano al Papa a fare il Papa. Primo, siccome sono appassionato della materia, per così dire, come si vede, c'è Papa e Papa, nel senso che e ognuno è libero di dare ogni Papa, sto dicendo, non me che sono un poverello, ma ogni Papa dà un'interpretazione. Parliamone, sono un poverello rispetto ai papi, su, altrimenti chi è lei? Portavoce? Scusi, dai. Scherziamo. Io non sono portavoce, sono uno che difende il papa. Ma lei, perché ma si può dire. Che rappresenta. Ma va bene, Giorgio, lei, ma non lei è che difende. Per questo non si vede la differenza tra quello che dice Benedetto XVI e questo papa. Si vede, ed è un dibattito aperto anche nel mondo cattolico. Tutto qui, sa, altrimenti, se lei pensa che ognuno di essi parla per l'infallibilità, possibilità, come sai, per i dogmi, quella affermata da Pio IX, non nell'interpretazione. Nell'interpretazione ognuno di loro ci propone un'idea di questo grande conflitto con l'Islam, non proprio con le mante. Ecco, tutto qui. Allora, chiamateci continuamente su questo tema, 800 24 0024. Dobbiamo andare un attimo in pubblicità, poi parliamo anche di abusivismo, cioè affrontiamo anche altre tematiche italiane, ma sullo sfondo voi chiamateci. Certo, su, e questo resta uno dei grandi temi. Eh sì, state con noi. Eccoci Oscar, 8.39. Per la verità tu hai detto marxistello. Il criterio è marxistello. Cioè, marxista. Il Papa, Oh santo Dio, il criterio con cui si riduce la jihad, si dice è guerra, non di religione, le guerre sono economiche, sociali, eccetera, eccetera, è un classico criterio marxista, ma non è che posso non dirlo solo perché altrimenti qualcuno pensa che metto in discussione. I papi, ripeto, tranne che per chi ci crede sui dogmi di fede, quando parlano in cattedra, sono titolari di ognuno un'interpretazione del loro magistero, sono fatti per discutere e su un tema come questo, ripeto, la jihad, adesso dire che è colpa del petrolio e delle classi sociali, non so proprio, a me pare di no. Comunque chiamateci, intanto affrontiamo quest'altro argomento che ieri è stato riproposto da Sergio Rizzo sul Corriere della Sera. Buongiorno Sergio e ben ritrovato. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, ieri raccontavi una delle babele della burocrazia italiana, il regolamento edilizio, dove ci ha messo 21 mesi e non hanno ancora fatto un regolamento uniforme, mi sembra di poter capire, no? 21 mesi per definire, per esempio, la veranda è fantastica, no? No, il sottotetto, sai il sottotetto cos'è, caro Oscar? È il locale o spazio, no, è questo, è lo spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante. Caro Oscar, devi essere preciso. Sottotetto. Oppure la veranda, che è il locale o spazio coperto avente caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico chiuso su lati da superfici vetrate con elementi trasparenti o impermeabili, parzialmente o totalmente apribili. Ti posso assicurare una veranda che su tutti gli abusivismi degli ultimi piani, e quindi sì, un pezzo della letteratura dell'esplosione si gioca su dei questo piani, sulla definizione di veranda e su cosa è apribile in tutto e in parte, esattamente così. Sergio Rizzo, ma perché partoriamo questi mostri? Ma perché voi non sapete che esistono anche le pergotende, che è l'incrocio tra un pergolato e una tenda, ed è tutto un problema, diciamo, lessicale complesso. Perché la burocrazia difende se stessa, più la vita è complicata e più loro sono potenti, no? Questo è il problema di fondo. Qui è stato fatto un errore, cioè, perché intendiamoci che 8.000 comuni italiani non possono avere 8.000 regolamenti e diritti diversi, è sacrosanto. Uno va in Germania sono tutti uguali, c'è una paginetta con le prescrizioni fondamentali, rispettate quelle e tu ti puoi far casa. Ma da noi non è così, ovviamente, perché appunto c'è un sistema che è un sistema che vive di queste cose. Ma l'errore qual è stato lì? L'errore è stato quello di affidare questa semplificazione, che è veramente la madre di tutte le semplificazioni, ai burocrati, perché i burocrati non faranno mai una riforma che, diciamo, che limiti il proprio potere, è evidente questo, no? Cioè, per esempio, guardate che è successo con la superficie. Cioè, il concetto di superficie è un concetto, diciamo, geometrico abbastanza elementare. Chiaro, cioè, no? Sì. Beh, diciamo, sono arrivati a stabilire 6 definizioni di superficie diverse: sì, lorda, totale, complessiva, sì, utile, calpestabile, sì, ma e accessoria. Sì, ma sì, la cosa bella è che la superficie totale e la superficie complessiva non è la stessa cosa. Sinonimi, non è la stessa cosa. Sono due cose molto diverse, capite? Quindi, cioè, questo è un problema che va affrontato, secondo me, in chiave sistemica. Cioè, le riforme non possono essere affidate ai burocrati. Avrebbero dovuto prendere 3 professori universitari, 3 esperti, 4 esperti, metterli intorno a un tavolo e dire: scrivetela voi, no? Senza avere, come dire, conflitti di interesse con... No, perché qui chi è che la sta scrivendo questa riforma? I responsabili degli uffici tecnici delle regioni, i responsabili degli uffici tecnici dei ministeri, dei comuni, e quindi non si va da nessuna non parte. Non si va da nessuna, no? Parte, ognuno... non ci si accorda. Si accorda, perché ognuno vuole il suo proprio pezzo di potere da mantenere, le sue prescrizioni, e non si fa un passo avanti. Caro Oscar, qui tra l'altro con noi, insieme a Sergio Rizzo, c'è un deputato dell'Assemblea regionale siciliana, gruppo misto, tra l'altro ex sindaco di Trapani, mi risulta. Girolamo Fazio, buongiorno. È caduta la linea, adesso lo recuperiamo. Lo recupero, ti vedo perplesso. No, ero perplesso perché chi lo deve recuperare non era al suo posto, quindi ho avuto un lampo di consapevolezza. Adesso lo recuperiamo perché in Sicilia è rispuntata la sanatoria per gli abusivi. C'è uno degli emendamenti che vuole permettere la sanatoria per coloro che hanno costruito case entro 150 metri dal mare. E non solo in Sicilia, perché anche in Sardegna c'è chi propone Sicilia, in quel caso sì, le sanatorie, però nelle aree tutelate. Cioè, regione che vai, vecchie tradizioni e tentazioni che riemergono. Ma il dubbio è questo, cioè, Sergio Rizzo, serve anche a questo questa Babele, questa giungla interpretativa? Non è che serve proprio a favorire queste tipologie di abusivismi? Rizzo. In Sardegna, no? In Sardegna è stato eccepito che esiste una legge regionale che, diciamo, permette a certe condizioni il condono nelle aree protette, esatto, contrariamente a quello che prevede la legge nazionale. Esatto. Adesso la disputa qual è? E se sia prevalente la legge regionale o quella nazionale, soprattutto a statuto speciale. Esatto, c'è chi sostiene che essendo la Sardegna una regione a statuto speciale, esatto, in questo caso prevalga la normativa regionale. Quindi rendetevi conto di qual è la situazione. L'abbiamo recuperato. Ma... però aspetta, Girolamo Fazio, buongiorno, deputato. Buongiorno a voi. Eccoci qua, il gruppo misto. Caro Fazio, ci deve spiegare, perché leggere così questo emendamento che prevede la riapertura della sanatoria o la proposta di far dare la sanatoria entro a coloro che hanno costruito case entro 150 metri, perché l'ha fatta? Ci spiega la ratio? Sì, ritengo obiettivamente che nei confronti di coloro i quali hanno realizzato questi manufatti si sia determinata una forma di ingiustizia, secondo me è contribuita da un intervento normativo poco chiaro o quantomeno inattendibile. Credo che sia estremamente importante rilevare, così come tra l'altro voi avete anche evidenziato, la regione siciliana ha una competenza esclusiva, in base alla quale nel 1976, con la legge regionale 78-76, ha determinato, nell'ambito di un intervento normativo che parlava di turismo, l'obbligo di distanziarsi da 150 metri dalla battiglia nella realizzazione dei manufatti. Venivano esclusi ovviamente semplicemente e solamente quelli che avevano diretta fruizione con il mare. Questa norma, anche dalla interpretazione letterale, non era rivolta ai cittadini, ma bensì ovviamente era rivolta ai comuni, che avrebbero dovuto recepirla nell'ambito della strumentazione urbanistica, cioè significa nell'ambito della pianificazione, e poi applicarla ovviamente a secondo le diverse fattispecie. E perché lei vuol salvare? A parte che guardi sulla competenza specifica ed esclusiva, c'è Oscar Giannino che ha alzato le mani, come dire, di fronte alla competenza esclusiva. Aspetti. Che cosa è accaduto quindi? Addirittura nell'anno successivo, nel 1977, questa norma è stata comunque interpretata, ma non solo ovviamente da parte dello stesso governo regionale che ha emanato una circolare precisando e confermando che non produceva effetti nei confronti dei cittadini, ma anche da tutta la giurisprudenza, cioè i giudici amministrativi, nel momento in cui sono stati chiamati a interpretare la norma, l'hanno interpretata nel senso che non produceva effetti in capo ai cittadini. Che cosa significa questo? Se non produce effetti nei confronti in capo ai cittadini, non c'è una norma, non vale. E quindi, ma lei capisce, aspetti, no, non ci lei faccia capisce, la storia. Lei capisce, no, sì, alta, spiegato, perché sennò, no, di circolare il circolare dal 77, mi permetto, le faccio un'obiezione su quello che ha detto fino a questo momento, solo perché facciamo il nostro mestiere. Lei capisce che... Pronto? Sì. Ha deciso che posso fare una domanda o no? Ecco, allora, le posso dire semplicemente questo. A chi ascolta, lei capisce che l'obiezione che lei avanza sul fatto che una norma, stante la competenza della Sicilia, non si discute, che una norma ponga il limite no entro 150 metri dalla battigia, e che il fatto che bisogna invece dire no, si poteva, perché la norma si applica ai comuni, non a coloro che realizzano i manufatti. Lei capisce che chiunque... capisce solo che è un'eccezione bizantina. No, mi ascolti, non sono io ad averlo detto. Ma lei possono essere tutti i giudici del mondo. È così. In termini giuridico, no, guardi. dal punto di vista comunicativo e sociale, forse sicuramente lei no, avrà dal punto di vista riguardo. Sostanziale. Ma noi insieme a Sergio Rizzo stiamo descrivendo un'Italia che si perde sin abissa esattamente perché dal punto di vista giuridico norme per non far costruire i 150 metri diventano nelle mani dell'interpretazione dei giudici e dei politici le norme che consentono di costruire entro i 150 metri. Noi quello stavamo dicendo. Non è così, mi ascolti, purtroppo non è così, perché che cosa è successo? Che la norma ovviamente non solo è stata interpretata, ma anche è stata attuata in questi termini, la conferma il fatto che solo nel 1991, cioè a distanza di tantissimi anni, la regione siciliana approva una legge di interpretazione autentica, cioè solo nel 1991 viene affermato e confermato che quella norma non era diretta ai comuni, ma era diretta in capo ai cittadini, cioè nel 91, con interpretazione, con effetti giuridici retroattivi. No, guardi, non funziona in questi termini, perché se il problema era così controverso, la regione siciliana avrebbe dovuto intervenire immediatamente, chiarire ovviamente la questione e porre in essere nei confronti dei cittadini una norma. Però scusi, che sia Fazio, il dato di fatto è che questo i suoi emendamenti lei li presenta e vengono, è già successo, bocciati. Adesso è stato sospeso, verrà probabilmente bocciato, quindi evidentemente lei è poco informato. No. È ovvio che la questione è abbastanza complessa, nessuno pretende, peraltro io ho proposto una soluzione, non ho proposto la soluzione, ma credo che sia estremamente opportuno anche un dibattito, e perché mi si dica non è vero quello che effettivamente lei dice, è falso, e allora, ma se la posizione è semplicemente solamente così come mi pare di ascoltare, una posizione squisitamente politica e ideologica, senza verificare di norma, di chiarezza della norma, ha maggior ragione. Non lo so, ci facciamo aiutare anche da Sergio Rizzo. Sergio, che ascoltate, le norme dicono fate quel che volete, il politico vi dice costruite. Sergio Rizzo, ma perché non ci hai capito niente? Perché questa norma si deve applicare ai comuni e non ai cittadini. Però sono stato a Triscila Mare. Io non so se l'onorevole Fazio è stato a Triscila Mare. Allora diciamo che l'esito finale, quello lì, è di tutte questi pasticci che sono stati fatti. 5.000 case che sono così abusive che non hanno potuto neanche accedere ai vecchi condoni. 5.000 case, le strade a Triscila non hanno neanche i nomi, c'hanno i numeri come a New York. Ecco, e siamo a un chilometro da Selinunte, cioè da uno dei siti archeologici più belli del mondo, e questo è il risultato. O la politica si mette in testa di fare le cose serie, o se no il nostro paese lo distruggiamo, non so se è chiaro. L'abbiamo già distrutto, è il tentativo di fare le cose serie, e io vorrei eventualmente, se questo rischio che apprezzo, forse se si leggesse la proposta, vede che non è una proposta del tutto illimitata, ma bensì è non solo limitata, perché viene accolta a determinate condizioni, perché è estremamente importante laddove c'è la deturpazione del paesaggio, che non è ammissibile la presenza. Però mi permetto di ricordare, a scanso di equivoci Rizzo, che questa è tutta una normativa regionale. A livello statale non funziona in questi termini, questa è una legge regionale che produce questi effetti nel territorio regionale. Se andiamo fuori lo stretto o addirittura nelle altre isole, a Sardegna, bene, così come d'altronde avete evidenziato il problema del regolamento che condivido, qui ognuno fa di testa propria e non mi pare che sia corretto. A livello nazionale c'è un'altra norma che consente, non effettivamente e determina il vincolo di inidentificabilità assoluta, come è stato non è andata via la linea. È andata via Daniele. No, è andato via lui, è risparito come prima, non che non è che li abbiamo levato noi. No, infatti, è risparita la linea. C'è ancora Fazio? No. Pronto? No. Sì, Fazio ci sente. Sì. Ecco. No, è andata via Fazio. È andata via un attimo la linea. No, però Fazio, la domanda molto banale è questa: ma se c'è questa legge che impedisce di costruire entro 150 metri, lei ci ha spiegato che si deve applicare ai comuni e non ai cittadini. Sì. Ma se c'è questa legge, perché c'è una casa nei primi 150 metri e lei la vuol salvare? Molto banale. Per una questione, come ci ha detto, di lunga spiegazione burocratico-giuridica? Non c'è più. Non c'è più. No. No, no, non è, c'è caduta, più. È caduta la linea. È caduta la linea. Comunque io difendo il mio diritto di considerare queste monumentali, fantastiche imprese alpinistiche del diritto, in cui la politica eccella con lo stato di abusivismo, la prova comprovata che la politica strizza l'occhio sistematicamente da decenni con l'abusivismo. Lo sappiamo, per questo ce ne occupiamo tutte le volte che vengono anticipate queste cose. Mi prendo la responsabilità di considerare questa la radice della riproduzione della devastazione delle coste italiane, delle collie e delle montagne, di cui i grandissimi giornalisti come Sergio Rizzo documentano poi la riproduzione. Se non ci fosse stata una politica così bizantina, ci sarebbe stata questa roba qua. Ma infatti è poi un'altra faccia della cosiddetta burocrazia, no? Che trova sempre il modo per salvare le cose, l'interpretazione perché di una legge, norma dica A è il contrario di A. Esatto. Perché poi si applica ai comuni e non ai cittadini. Ma i cittadini dove vivono? Nei comuni? Ma, no. ma insomma, io non lo so. Vabbè, Sergio, niente, ci dobbiamo fermare, c'è il giornale radio e non abbiamo recuperato, adesso la linea non prende molto con lei, caro Rizzo, continui nella sua battaglia, perché senza di lei finiamo divorati dai bizantini del diritto della pubblica amministrazione. E viva il diritto, per carità. Grazie Sergio Rizzo, ovviamente inviato del Corriere della Sera, c'è il giornale radio adesso, ma poi parleremo di Higuain. Ma sì, che non è che ci siamo abbattiti e parliamo di calcio. Ma è un Higuain? No, non è un Higuain. Sai che ieri ho chiesto a Elisabetta Fusconi, ma sai chi è Higuain? Fa, ma chi è? Sì, tu parli sempre del Milan, boh, sarà un portiere del Milan. Ma no, lei perché a Isola non è ancora arrivata la notizia dove vive lei, questo è il punto. Gli parlano solo di, come sai, hockey su prato, polo. Ma ha detto anche, ma com'è che si dice Higuain Higuain? Era sprezzatura, si chiama sprezzatura in italiano questa cosa. No, comunque ne parliamo tra poco. Higuain dal Napoli alla Juve, cos'è, un tradimento oppure è il libero mercato? Caro mio, è il mercato, tra poco bellezza. Lo scopriremo. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Si scrive Spagna e Portogallo, ma si legge Italia. La Commissione Europea infatti ieri ha deciso di non multare né la Spagna né il Portogallo per non aver ridotto il loro deficit e quindi per aver violato le regole del patto di stabilità. La decisione è stata unanime da parte dei commissari europei perché si è tenuto conto delle difficoltà economiche di questo momento e anche e soprattutto degli sforzi fatti fino ad ora dai due paesi. Tant'è che il commissario agli affari economici europei, Pierre Moscovici, ha aggiunto: abbiamo deciso che l'approccio punitivo non è il migliore in un momento di dubbi dei cittadini nei confronti dell'Unione Europea. Tradotto, con la Brexit, le tensioni sulla migrazione, il terrorismo e il consenso verso Bruxelles ai minimi storici, non era il caso di creare ulteriori tensioni con l'opinione pubblica spagnola e portoghese. Ma come dicevamo, si scrive Spagna e Portogallo eppure si legge Italia, perché anche il nostro paese tra ottobre o più probabilmente novembre dovrà presentare le proprie stime alla Commissione Europea, riviste, ahimè, probabilmente al ribasso, ma il precedente di Spagna e Portogallo potrebbe essere d'aiuto e venire incontro proprio al governo Renzi nelle trattative con Bruxelles, il che non toglie però che una vera politica europea di rilancio economico dell'Europa non può passare solo per piccoli posticipi di promesse e piccole concessioni sul deficit. Servono, come spesso ripetiamo, investimenti e investimenti massicci. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, siamo qui. Sono le 9:05 minuti, chiamateci all'800 24 00 24 per parlare delle varie tematiche che abbiamo affrontato, l'Islam, noi e l'Islam, l'abusivismo e l'abusivismo, se volete, Io sottolineo i politici e l'abusivismo. vabbè, sono fenomeni di massa la cui esistenza non sarebbe avvenuta senza la politica che li induceva, strizzava l'occhio, capitalizzava voti, e io la penso così, sì. Vogliamo però parlare di un tema che non è solo racchiudibile nel fenomeno calcio, perché quello che sta succedendo tra Juve e Napoli in questi giorni è qualcosa che va al di là, riguarda poi come sempre il calcio in Italia, no? Trascende una dimensione di costume, esatto, di cultura, di antropologia, di sensibilità, di misura a volte varcata, ecco, esatto, per ragioni varie e diverse. Ieri Torino, l'arrivo di Higuaín. Però posso dire, da, da torinista, posso dire, l'invidi, da torinista, ma sportivo, no, no, a parte invidiare. Comunque ieri Torino ha fatto un buon esordio, ma detto questo, erano nello spirito, mi piace stornare nello spirito della mia città, cioè la misura appunto subalpina, non erano migliaia e migliaia di sconvolti lazzaroni che inneggiavano. Hanno già vinto il sesto scudetto, forse anche il settimo, me l'ho già portato avanti consecutivo, quindi voglio dire. Fare il tifoso. No, diamo atto, erano un po' di tifosi, giustamente convinti del valore di chi ha fatto 36 gol. Io sono rimasto un po' così, perché devo dire la verità, non mi aspettavo una somma cioè la grande attenzione con cui la manageriale a cui la Juventus ci ha obiettivamente nel tempo, negli ultimi anni, abituato, a differenza purtroppo della conduzione scassata e improvvisata dal punto di vista finanziario ed economico di molti club italiani, la Juventus è una solida. Io non mi sarei aspettato questa cifra. È vero che hanno fatto questo colpaccio micidiale, perché se pensi a cosa a che cifra piazzano Pogba, certo, allora e con quella praticamente sono in riga, no? Siamo oltre i 100 milioni nel dare e nell'avere. Però non me l'aspettavo. Non te l'aspettavi. Il tema è questo, cioè un grande campione, poi il campione di Napoli, Higuaín, che lascia Napoli per andare non ma il calcio è il grande campione o il grande campione di Napoli, certo, di Torino, però, di Manchester? Esatto. È il grande campione. Però non va all'estero, rimane in Italia e va nella squadra dove presumibilmente vincerà. I napoletani avrebbero preferito che andasse all'estero piuttosto, certo, che alla Juventus, piuttosto che vedersero lì, che al San Paolo magari farà anche un gol. Ma per aiutarci a capire abbiamo chiamato due scrittori, due intellettuali, anche due grandi tifosi in questo momento ancora di più contrapposti. Giampiero Mughini, buongiorno e grazie di essere qui. Ben ritrovati. E Maurizio De Giovanni, scrittore, siamo a Napoli, l'inventore del commissario Ricciardi. Buongiorno De Giovanni. Buongiorno, buongiorno a tutti, un saluto affettuoso a Giampiero. Diciamolo ciao, subito Maurizio, ho appena letto la tua serenata, che bello. Grazie, grazie. De Giovanni, diciamolo subito, è un traditore Higuaín? No, dunque, io devo tristemente depotenziarvi un po' la vista polemica, che bene farebbe a quest'ora per svegliarci tutti. In realtà l'evento ha avuto un comportamento secondo me assolutamente legittimo e anche opportuno. Io non credo che abbia speso troppo per Higuaín, fermo restando che sono cifre in cui in termini oggettivi e facendo un passo indietro nessuno vale la pena di spendere una cifra del genere. 90 milioni, esatto, 90 milioni, ma anche 120 per Pogba, cioè nulla vale al mondo tanto per una prestazione professionale, per un annetto nell'ambito dell'effimero come il calcio. La realtà dei fatti è che il problema è del calcio italiano, perché il calcio italiano sta procedendo in un processo di francesizzazione del campionato, secondo il quale tra la prima squadra e le altre c'è un gap formidabile che si va allargando ulteriormente. Quindi quella che tu dicevi inizialmente, cioè la preoccupazione dei tifosi in generale, ma dei tifosi di tutte le squadre, per un campionato che va perdendo significato sempre di più. Non c'è partita, esattamente. Io oggi leggevo, stamattina prima di parlare con voi, leggevo le due formazioni, Juventus A e Juventus B, che si contrappongono oggi e fanno davvero paura. Sì. Quindi detto ciò, credo che il calcio sia una materia economica, ma fondata sulle passioni, cioè il tifoso non è un cliente che può cambiare detersivo o può cambiare automobile a seconda delle preferenze. Il tifoso è tifoso, quindi il tifoso è appassionato. L'unica cosa che può fare il tifoso è rammaricarsi o gioire per quello che succede, e il tifoso del Napoli oggi, è inutile negarlo, vede uno che un mese fa saltellava sotto la curva dicendo difendo la città e chi non salta il Juventino è, e lo adesso, vede con la sciarpa bianca, è smarrito, è quantomeno smarrito, è quantomeno smarrito. È una cosa che perlomeno di Torino, essere eufemista. Però Mughini non è un traditore, dice De Giovanni. Disorientati però sono i napoletani un po', Ma disorientati, ma il calcio è così, i calciatori sono dei professionisti sotto contratto e a pagamento, per quel che è del contratto di questo grande giocatore Higuain in quella grande squadra che è il Napoli, il presidente De Laurentiis aveva eretto un muro di Berlino, nel senso che aveva indicato una cifra, non dirò ragguardevole, ma apparentemente irraggiungibile, senza la quale Higuain non si sarebbe mosso. Questa cifra, vogliamo ricordarlo, è stata superata nella storia del calcio solo da un acquisto del Real Madrid che è molto spendaccione e che ha pagato 100 eccessivi milioni per un giocatore d'attacco Bale. Questa cifra appariva quindi una cima dell'Everest irraggiungibile. Dopo i 36 gol dell'anno scorso forse la si vedeva un po' meglio, ma era sempre una cifra irraggiungibile. La Juve, che ha pagato Tevez 13 milioni, esatto, appariva la più inadatta a scalare questa cima, ma le contingenze della vita, la necessità di avere un puntero di grande valore per affrontare le sfide dell'anno prossimo, la Juve è stata disposta a firmare quella sommetta. Io non vedo però dove ci sia in tutto questo tradimento, golpe, attacco alla gola, i poteri forti del nord, eccetera. C'è una legge economica, c'è una legge sportiva, i campioni vengono venduti, i campioni sono stati nei giochi a squadra, sono sempre stati venduti, quelli di pallacanestro, assolutamente. E allora, con i soldi che il Napoli è una cifra abnorme, come una cifra abnorme della Pogba, sono due cifre abnormi che peraltro fanno bilancia, eccetera, con quella cifra il Napoli si comprerà qualcuno, ma okay, rafforzerà una squadra che è già magnifica. Però è bella questa cosa, questo è molto sereno, sì, e soprattutto dalla parte juventina è serenissimo, mi sembra io che vi guardo dalla parte milanista, cercate di capire un po' sono Calimero fino a qualche anno fa, vi guardavo dall'alto in basso, era legata ad un benefattore, eccetera, che non c'è più, il punto da dire. Il punto della società che questa società duri malgrado cambino i benefattori e malgrado cambino le circostanze. Non dimenticare che la Juventus era stata annichilita 10 anni fa da un bombardamento come quello di Dresda. Questa è la cosa più straordinaria. La società in questo momento economicamente più solida, più efficace, eccetera, è la società che era stata distrutta. Questo è vero, caro Oscar, ma in trangucia questo boccone amaro, ma sta parlando tu, caro Granata, della Juve. Io ascolto sempre i due maestri che abbiamo oggi, io li ascolto in religioso silenzio perché posso solo imparare, quindi, detto questo è vero, è bello sul bombardamento di 10 anni fa non riapriamo la pagina, la pagina, no, però Oscar prima Di Giovanni, adesso torniamo da lui, però ci raccontava... io Di Giovanni volevo solo dire, sì, i tifosi sono clienti, dimostrazioni che i tifosi sono clienti. Pensi De Giovanni, la marcia indietro l'altro ieri a sorpresa e che è una mazzata l'ennesima per le aziende del cavaliere Berlusconi, cioè quella di Vivendi sull'acquisizione della premier della televisione a pagamento, che diciamo l'azienda del cavaliere gli aveva rifilato finalmente tirando un sospiro di sollievo per i soldi che perdeva, si deve in buona sostanza, fatta la revisione dei conti, al fatto che i clienti, cioè i tifosi delle milanesi, visto che in Coppa zero, hanno tenuto il portafoglio chiuso, e come se sono clienti tifosi, perché per i bilanci dei club in questi anni, lei lo sa come me, Lughini ce lo insegna, sono i diritti televisivi, il franchising, la proprietà degli stadi, sono i tre assi fondanti della solidità finanziaria. Mi faccio dire anche una cosa, il presidente del Napoli non è la prima volta, seppure a questi livelli sì, ma l'aveva già fatto della muraglia, del muro di Berlino per lucrare sulla vendita, perché come sa sull'Avezzi, non a 94 milioni ma a un terzo, però fece 32. Esattamente lo stesso, e poi disse resta per un anno e poi te ne andrai. Quindi lì c'è una certa maestria in De Laurentiis a interpretare a proprio vantaggio le muraglie di Berlino, ecco. Ma non c'è alcun dubbio. Allora dobbiamo sgombrare il campo da un equivoco di fondo. Qui l'affare c'è ed è enorme ed è utile ed è opportuno per tutti. Non c'è un tifoso che non avrebbe venduto Higuaín a quella cifra, attenzione, non c'è un tifoso che non avrebbe voluto vedere andare via Higuaín a quella cifra. Higuaín è un calciatore di 29 anni che ha fatto la sua migliore stagione, che non è detto che si ripeta, stagione che peraltro, stagione enorme di Higuaín, non ha portato al Napoli nemmeno un trofeo, questo va detto. Cioè Higuaín ha fatto 36 gol, il calcio è uno sport di squadra, per motivi diversi il Napoli non ha vinto nulla, quindi non è questione di non cedere Higuaín o di cedere Higuaín. Higuaín è un'operazione finanziaria corretta, molto conveniente, che il Napoli ha fatto bene. Ha fatto bene il Napoli, ha fatto bene la Juventus, che ha comprato un diamante unico al mondo, quindi non c'è prezzo per un Van Gogh, non so se mi spiego, non, sì. Non ha senso parlare di troppo o di poco in un mondo in cui ci sono dei ricavi generati, eccetera, eccetera. Poi si possono fare una serie di considerazioni su quanto sia il fatturato della Juventus in rapporto a quello complessivo della Exor e quanto sia il bilancio, quanto sia certo. Il fatturato del Napoli nella Filmauro, certo. Penso che le percentuali siano un po' differenti. Un po' diverse, effettivamente, un po' diverse. La Juventus pesa l'1, il Napoli pesa, che fattura comunque un terzo della Juventus, pesa l'85% della certo. Filmauro, credo. Quindi questo è un altro discorso ancora. Il discorso di fondo è questo. Tu cedi Higuaín alla Juventus sì. E la Juventus uccide ancora più di quanto abbia fatto l'anno scorso. Questo è un po' vero. Ha cominciato a giocare un mese e mezzo dopo. E ha finito il campionato un mese e mezzo prima. Questo un po' è vero, ma lo so, Mughini, vissuta da Juventino, questa idea di essere nettamente sulla carta più forte degli altri, poi si vedrà il campionato. La carta il calcio, non conta lo un so. Beato cazzo. La carta lo so, non però conta. Dai. Nel 1982 la Juventus, quindi campionato 82-83, sì. Presentava così, aveva l'asse portante della nazionale campione del mondo, mi stai seguendo, l'asse portante, Gentile, Cabrini, sì, come nominare, Zoff, Tardelli. E poi aveva preso Platini e Boniek, cioè i due migliori giocatori europei. Sulla carta sembrava, come dite voi, che il campionato non andasse, ce ne fosse più. Esatto. A gennaio la Juventus stava in sesta posizione. Sì. Perché la carta è una cosa, il campo verde... Vabbè, scaramanzie calcistiche. Questa è la bellezza del calcio. Scaramanzie. Sì, ma anche intelligenza. È quello che ci auguriamo tutti. No, certo. Cioè, questo, il timore. No, ma non per altro. Però io posso dire. Ma per dare l'info al contraddittorio, altrimenti sarebbe molto interessante anche per le televisioni. Al netto dell'eccesso di vis da mettere nella teatralizzazione, però, Giovanni, bisogna dire anche una cosa. E lo dico, io non sono sospettabile di essere filo juventino, però tento di essere oggettivo, non sono un torinista che vede bianco-nero e gli viene il sangue agli occhi. La forza di una squadra e la serietà sta innanzitutto in come viene condotta nel management. Allora, io credo che troppi club italiani siano condotti a pizza e mandolino, cioè il giorno in cui approderemo ad alcune modifiche fondamentali delle regole societarie, economiche e finanziarie del calcio, avremo anche probabilmente una situazione più stabilizzata. Sarà, Oscar, però il giorno in cui non è Vandanara a portare avanti una trattativa. Ma e vedi, ecco. Io Vandanara, alla luce dei risultati, mi sembra non la parte bassa del mondo dei rappresentanti degli interessi dei giocatori in Italia. Garantisco che quelli che conosco io sono specializzati nell'arte di fare compravendite di giocatori che non scendono mai in campo e che servono solo per fare finti attivi patrimoniali del bilancio della società. Chi si occupa di queste cose sa perfettamente che è così. Al cui confronto Vandanara è una signora professionista rispettabile. Ma proprio rispettabile da tutti i punti di vista del codice civile, societario, eccetera, eccetera, che gli altri violano, consentendo alla società di violarlo con i regolatori che tengono gli occhi chiusi. Perdonate, ma questa è la realtà dei bilanci patrimoniali del più dei club italiani. Vabbè, però, Giannino, io vorrei dire una cosa, se mi permetti. Il discorso comunque alla fine si conclude, come tu dicevi giustamente, col tifoso allo stadio davanti alla televisione o nel negozio per comprare la maglietta di quella squadra. questo tifoso va a mettere davanti alla televisione, va allo stadio o compra la maglietta sulla base di un elemento soltanto, che è la passione e la voglia di vedere la propria squadra vincere. Se questa voglia, se questa ipotesi viene azzerata, quel tifoso i soldi dalla tasca non li caccia più. Ma questa è una cosa che dovremmo fare mente locale quando si parla di calcio. È il problema, appunto. Basta vedere quanta gente va agli stadi ormai. Ma c'è il rischio che questo strapotere si trasformi anche in delle perdite economiche non indifferenti. Per concludere, però, Gian Piero Mughini, ma non la sentiamo così eccitato da questo arrivo di Higuain? Una cosa così. Se lei me lo consente, nella storia della Juventus ci sono stati molti arrivi importanti. Lei me lo consente. Higuain, ma per carità, io penso che sia stato un acquisto azzeccato per il momento particolare. Ogni cosa è indispensabile in quel momento. E questo momento era quello che bisognava presentare un terzetto di attaccanti, tutti di prima fila, per affrontare le sfide, eccetera. Però poi realisticamente io mi immagino che l'Higuain del prossimo anno è umanamente possibile, non sia un Higuain da 36 gol, le cose succedono una volta nella vita, esatto. Però se mettiamo assieme i gol suoi, quelli di Dybala e quelli di Mandžukić, possiamo fare una buona figura. Però vedi, forse arriverete nei primi 5 Mughini, forse arriverete dei sovrani. No, questa è certo. la composta misura dei sovrani. E poi c'è anche l'aspetto di mettere tre campioni lì davanti, e poi c'è anche l'idea di togliere il Pipita a Napoli. Vabbè, insomma, è stata un'occasione, è stata colta. Noi intanto vi ringraziamo davvero tanto, Gian Piero Mughini e Maurizio De Giovanni. Staremo a vedere. E vediamo se a gennaio è sesta. Io mi associo a questo auspicio. Vediamo se la Juve ce la farà arrivare tra le prime 5 quest'anno. Chi lo sa, effettivamente. Non lo so, vedremo. Intanto, dai, i nostri ascoltatori ci chiamano. Paolo da Bergamo, buongiorno. Paolo, torniamo alle tematiche forse che abbiamo affrontato all'inizio di trasmissione. Buongiorno. Buongiorno Paolo. Volevo intervenire in merito alla questione religiosa, guerra di religione. Sì. E volevo dire, sì, sicuramente hanno componente, però non dimentichiamoci che noi 3 mesi fa abbiamo dato soldi a Erdogan, mi pare 400 milioni, era una tranche che poi bisognava dargli 6 miliardi. E l'intelligence non sapeva chi era questo personaggio. Poi, per dire, l'Europa com'è? Se quei 6 miliardi che dovevamo dare a lui li tenevamo sul territorio per fare una politica seria di accoglienza oppure di intelligence per sapere chi viene sul nostro territorio, non demandare alle Caritas, agli oratori, è una politica seria questa. Poi diamo sanzioni alla Russia e noi vendiamo armi ai sauditi per attaccare gli yemeniti. Per me c'è una grandissima confusione, non c'è coesione. È inutile che poi il Renzi di turno bisogna collaborare, non c'è collaborazione, ognuno sta nel suo staterello. Cioè, io sono europeista, però l'Europa deve fare un cambio di passo, deve fare un cambio di marcia. Non ci siamo, per me non ci siamo per va niente. Bene, Paolo, insomma, vede un'Europa c'è effettivamente, quando ci sono i sondaggi, caro Oscar, sul pessimismo di come noi società vediamo che siamo un po' portati a una sorta di declino un po'. E si coglie anche dai nostri ascoltatori, cioè questa sensazione che non abbiamo da nessuna parte un modo per reagire, strumenti utili per e logiche efficaci. C'è un po' una rassegnazione a un declino e una lento. Profonda crisi della leadership in Italia ed europea, nei grandi paesi europei, perché effettivamente, anche voglio dire, parentesina di 5 secondi, la Merkel costretta a sua volta a minimizzare ogni qualvolta c'è un attentato, la fortezza tedesca è violata come si è visto nelle ultime 2 settimane, e anche loro è evidente che i politici tedeschi vicini alla Merkel, non quelli dell'opposizione che fanno il contrario, tentano in ogni modo di minimizzare la matrice islamica, perché hanno il problema avendo aperto gli accessi a siriani e afghani nell'estate dell'anno scorso, cosa che ha provocato l'accelerazione della crisi della leadership europea, della governance europea. Quindi, come vedi, poi questa roba si riduce anche a una mancanza di altezza rispetto ai problemi della leadership europea. Senti, prima degli altri ascoltatori, caro Oscar, vedi che molti ci scrivono anche sul calcio a dire lo scandalo è il tema degli stipendi più che degli ingaggi, di quanto costa comprare un calciatore. Ricordiamo che qui 90 milioni perché bisognava spendere e pagare quella clausola di rescissione di contratto. Poi, e qui però forse a questi calciatori i contratti annuali per loro vanno dagli 8 ai 10 milioni. Sì. milioni alle società. Higuain prende una roba circa quello, da ridere. 7 milioni e mezzo forse. Però questo, ecco, i 7 milioni e mezzo, qui forse una risposta degli ascoltatori e anche a quello che diceva De Giovanni sulla questione del mercato, insomma, sì. Siamo nel mercato, no? Sono cifre, è vero, esorbitanti, 120 milioni per un calciatore, un qualcosa di effimero, magari dura 2 anni. Siamo all'interno del mercato, cioè sono cifre che non ci devono scandalizzare. In campionati e con squadre che hanno flussi di entrate tali da rendere sostenibili queste cifre, come capita al giro delle squadre che ritualmente ogni anno poi animano e sono protagoniste della Champions League, cioè questa roba qua, cioè il Real Madrid, club come Real, le squadre britanniche, il Barcellona, il Bayern, il Monaco, le grandi britanniche e così via, non sono all'altezza di un calcio come quello italiano, che a differenza della Premier League britannica, della Bundesliga tedesca e del campionato spagnolo, noi abbiamo un campionato squilibratissimo dal punto di vista economico finanziario, cioè noi perdiamo una quantità di anni nei bilanci delle società di Serie A una quantità di milioni di euro che dalle altre parti non è così, no, non c'è questa perdita. Noi siamo profondamente squilibrati e siamo poco seri nei criteri di bilancio. Ecco, questo è il problema italiano e questo spiega l'enorme divario che c'è tra club nel nostro paese. Sì. Cioè, andate a vedere il merchandising delle squadre inglesi, no? Vendono in tutto il mondo magliette perché hanno dei piani, esatto, marketing molto aggressivi, molto precisi, molto puntuali. E quindi guadagnano molto anche dalla vendita di magliette, di gadget, di, no? E tanto è vero quello che dico, cioè che la serietà poi delle gestioni si traduce anche in migliori risultati, che per esempio, parlo della squadra che tifo io, quindi Torino, quando è uscita da anni di gestioni un po' sconsiderate, non voglio usare altri aggettivi, ed effettivamente con Cairo è tornata a comprare giocatori, gli acquisti che fa il Torino sono nell'ambito dai 3, 7, 9 milioni massimo, altro che 100 milioni, però con l'attenzione ai conti sono arrivati anche risultati. Naturalmente non è la Champions, non è il primo o secondo posto, ma non il rischio di retrocessione. Negli anni la serietà dei bilanci, che in Italia complessivamente manca, fa la forza di un sistema calcistico. Allora, ci sono tanti ascoltatori. Giacomo da Firenze, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Ok, io avevo chiamato per tornare sul discorso e sulle parole che aveva pronunciato Papa Francesco ieri. Sì. Perché mi pare che Papa Francesco abbia detto inizialmente qualcosa di molto coraggioso. Lui stesso ha detto che bisogna avere coraggio nel dire che questa è la terza guerra mondiale a pezzi. E su questo credo si possa essere fondamentalmente d'accordo. Dopodiché ha perso tutto il coraggio quando ha detto che non si tratta di una guerra di religione. Io non so, volevo fare questa piccola riflessione. Sì, cioè l'ha visto partire con più coraggio e poi non ha avuto il coraggio di andare fino in fondo. Anche perché secondo me riflette un po' quello che anche noi europei abbiamo pensato fino adesso, che non si trattasse forse di una guerra di religione, dimenticandosi che in realtà in Medio Oriente la guerra di religione dal secondo dopoguerra sta andando avanti. No, ma è chiaro, Giacomo, però adesso Oscar, poi vediamo che ne pensi. Ci hai già detto, ma dire non ha avuto il coraggio, magari banalmente la pensa come dice. Cioè, non è che per avere il coraggio bisogna dire quello che pensate voi, nel senso, i cari ascoltatori, come quello che dice Facci ha avuto il coraggio di dire quello che tu non hai il coraggio di dire. No, è che non lo penso, è diverso. No. Non pensandolo, del resto, non lo dico. Maggio, in un'intervista che suscitò in Italia non tante reazioni, ne suscitò tantissime invece negli Stati Uniti, Papa Bergoglio disse: io ritengo che molto di ciò che si vede di terrorismo in giro, non volle pronunciare la parola islamista apposta per quello che seguiva nell'intervista, si debba a come abbiamo tentato di esportare la democrazia noi occidentali. Ecco, questa è una teoria molto... Questa roba fece esplodere anche per la centralità, voglio dire, della campagna presidenziale, Trump, non Trump, la Clinton, che come segretaria di Stato, insomma, pagina che però molto è un'idea diffusa, Oscar, esatto. Molto diffusa. Però, no? Sai, se il Papa dice la cosa fondamentale è questa, Ma infatti a te rende perplesso, ma io credo che perché lui ci creda veramente. Kaide è venuto prima, capisci? Kaide è venuto prima, la fratellanza musulmana è venuta prima, Kaide è venuto prima. Daesh è uno sviluppo di queste cose, perché Daesh effettivamente nasce dall'errore americano della debattizzazione in Iraq. Secondo questa teoria si può affondare nelle radici del colonialismo proprio europeo, quello non recente, no? Non del colonialismo economico, ma del colonialismo vero e proprio. È evidente che l'Occidente ha commesso errori grandiosi di autoconvenzione alla propria superiorità civil-culturale. Detto questo, se il Papa dice Daesh esiste per colpa nostra, capisci che... Allora, Filippo da Pisa, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Premettendo che non sono un credente, io invece credo che le parole del Papa siano la spiegazione giusta a quello che sta avvenendo. Ovvero che questa non è una guerra di religione, perché anzi sono gli interessi di cui lui parla che ce la vogliono vendere come tale, perché insomma, se noi pensiamo che noi occidentali, tra virgolette, a quali interessi d'Europa, quali interessi, Filippo? Partendo dagli anni Ottanta, per esempio, l'interesse antisovietico nel finanziare i talebani, per tornare ai giorni d'oggi alla Siria, a finanziare questi terroristi però democratici per abbattere Assad, prima ancora nella guerra contro Gheddafi. Cioè, qui ci sono degli interessi atlantisti uniti a quelli delle petromonarchie e quindi sunniti, che tendono a fare guerra a parte del mondo arabo per appunto motivi economici e per motivi di dominio, perché non ci dobbiamo scordare che in Siria e in Libia erano gli unici stati arabi laici dove e noi li abbiamo abbattuti. Per dare spazio anche agli altri ascoltatori, anche se siamo in chiusura, non ce la facciamo tutti, non ci faccia tutta la storia. Insomma, abbiamo capito comunque la sua posizione. Raccogliamo i frutti di quello che abbiamo seminato, sì, no? Però, con politiche scriteriate. Che la Siria sia abbattuta dagli americani e dai petrolieri, però ci vuole molta fantasia. Molta. Gianluca ci chiama da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno. Dunque, io volevo solo fare un accenno a quello che avete detto prima circa il Dedalo, la giungla, eccetera. Io faccio il progettista, quindi sicuramente parlo un po' di... Abusivismo. No, ma io non entro nel merito dell'abusivismo. No, era per dire il tema, visto che ci spostiamo dal Papa. Certo. Lì. Ecco, comunque, avete menzionato due interventi, due specifiche, una relativa al solaio e l'altra alla veranda. Cioè, meno di così non si può dire, soprattutto quella del solaio, quella è il termine tecnico di come è stato esposto. Il problema è quello che avete mai provato a pensare di pagare le tasse in Italia leggendo le informazioni dell'Agenzia delle Entrate? È impossibile, bisogna andare da un professionista. Perché tutto è iperburocratizzato, tutto. Sì, no, diciamo che dovrebbe essere messo nelle mani del professionista. Io penso semplicemente come progettista, oltre over 50, quindi insomma qualche progetto l'ho fatto, che sia un problema di deroghe, non di regole. Le regole ci sono, il problema, come dicevate voi prima, ogni regione ha le sue regole, ogni città ha le sue regole, ogni paese ha le sue regole. Però Gianluca, il dato di fatto, il dato di fatto, come ci ha detto Sergio Rizzo, che il regolamento edilizio in Germania è di una paginetta e vale per tutta la Germania, quindi si può fare, se uno, a meno che non siano diversi i tedeschi. D'accordo, però diciamo che quel poco che stanno facendo non è fatto male. Il problema, ripeto, di interpretazione è ognuno si fa la propria interpretazione in casa. E... Certo, non è chiaro, questa è la problematica che c'è, caro Oscar. No, perché all'interesse della burocrazia pubblica c'è quelle degli ordini professionali privati, e mi duole dirlo, ma contano anche quelli. Va bene. Che dire, ci stiamo fermando qui. Sì, sono andato anch'io in palla. Niente, no, si no, ferma, tutto si trasforma. Tutto si trasforma. Pantarei. Anche il conduttore si trasforma. Chi era Eraclito? Tutti non ci saremo più. È la bellezza più un della vita. No, non è un giorno. Adesso i contratti scadono tra poche ore. Benissimo. Dai, le 9:34 minuti, ci siamo. Domani intanto siamo qui, domani per l'ultima puntata della stagione. Grazie, ciao.